7, ma avete rotto i coglioni con questo programmino? Perché è un programma di merda, dai, questa zanzarina, mo ti spruzzo l'autan, eh. Io avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega e basta con questa radiola di merda, basta, forza, dai, su. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Vedi che cosa c'ha questa trasmissione? C'ha che uno tutto il giorno immagazzina incazzature, arrabbiature di vario genere, tutta la merda che volete, poi in macchina sente la telefonata di un deficiente qualsiasi, prende, tiene premuto il ditino su WhatsApp, si sfoga, voi non leggerete, non manderete in onda niente, però uno arriva a casa rilassato, tranquillo, pronto per la famiglia. Bravi, servizio pubblico, bravi. Zanzarosi, contattateci all'800 24 00 24 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Allora, Davide, sai qual è il primo messaggio che mi è arrivato sul cellulare della redazione oggi dopo l'annuncio della morte del signor Dario Fo? Allora, un signore... Non voglio neanche saperlo perché purtroppo immagino, no? Un signore che ha scritto Dario Fo all'inferno con i punti esclamativi. Vabbè. E vai! Cioè, l'esultanza! Se ne vanno sempre i migliori, come dire, no? L'esultanza. Vabbè, i migliori, poi quello bisogna vedere naturalmente, perché qui non si fa... Un grande artista, un Nobel, un uomo che ha lasciato un segno sicuramente importante nella storia, allora, della letteratura, calma, del teatro. Calma, un momento. Per carità, nel giorno in cui tutti quanti fanno i peana, no, gli elogi post-mortem. Non tutti. No, Brunetta non l'ha fatto, però aspetta, adesso ci andiamo a Brunetta. Nel giorno dei peana, degli elogi post-mortem, vale la pena ricordare alcune cosine, perché vale la pena ricordarle, perché noi non ce ne frega niente di dire fu un grande artista. Beh, quello è i titoli, no, dei telegiornali, cioè i titoli dei telegiornali, ma questa qua non è, no, né ma porta si può porta. Ricordare facendogli ascoltare il meglio della produzione teatrale, ma quella è porta di porta. Dario Fo, ma quella è porta a porta, purtroppo non lo quella fa è porta a porta, ma non lo fa, non lo so se non lo fa porta a porta, noi non lo facciamo, però bisogna ricordare una cosa molto semplice, quello lo diamo per accertato, quello lo diamo per lo mettiamo da parte. Fu signor Dario Fo, per carità, ma poi è tutto legittimo, fu repubblichino fascista, comunista maoista. Posso leggere cosa disse sulla Cina una volta? Cosa disse sulla Cina? Lo possiamo ripetere oppure è blasfemo dirlo oggi? Si può, ma non oppure toglie nulla al genio che è stato. Che vuol dire? No? Ma ci come sono, dire... Che vuol dire? Cioè, cosa vuol dire? Cioè, è inutile, del giorno che è morto uno simpatizzò ricorda per molti, simpatizzò per molti terroristi, autori, no, di crimini efferati. Questo no? Ti becchi una querela per diffamazione. No, affiancò. No, come no, scrisse delle cose nessuno. Che poi, come no, fu uno dei difensori di Sofri e fu condannato per omicidio calabrese. Mica un terrorista Sofri. No, ma terroristi intendo, cioè, protagonisti mica di quegli anni. Sofri. Protagonisti di quegli anni del terrorismo. Protagonisti di quegli anni, ho detto. Protagonisti di quegli anni. Fu anche questo. Fu un attore impegnato anche in politica. Ma che vuol dire? Ma che banalità è? Ma in che modo fu impegnato ma in politica? Dire, ma uno non è, vabbè, che può comunque diffamare una persona che dicendo che era amico di terroristi. Io non è mai stato amico di nessun terrorista. Io non ho detto che era amico dei terroristi. Ho detto che fece delle campagne di appoggio a personaggi. A personaggi. Vedi, quelli. Questo volevo. Ma questo per Sofri, chiunque l'ha fatta. Anche, è stato condannato in via definitiva per omicidio calabresi. È stato condannato. Io firmai per la libertà di Sofri all'epoca e non mi sento un fiancheggiatore dei terroristi. Ho detto fiancheggiatore. Ho detto che. Fece uno spettacolo teatrale dove ricostruì, allora, la vicenda giudiziaria di Sofri. Allora, primo quello. Secondo, fece delle campagne a favore di alcuni terroristi di sinistra che poi furono dichiarati colpevoli di alcune cose. Non c'è dubbio su questo. Il rogo di Primavalle, vabbè, non ricordiamo queste cose, non fregano un cazzo a nessuno, dai. Però, la vicenda Brunetta. Noi siamo stati testimoni del vero litigio tra Brunetta e Dario Fo. Perugia, aprile 2013, chiamammo Dario Fo, che disse queste cose al signor Brunetta, trattandolo come una specie di nano da giardino, in pratica. Se lei vede Brunetta che giura davanti a Napolitano, è cretino. La prima cosa che faccio, cerco un seggiolino per poterlo mettere a livello, all'altezza, insomma, della situazione. E beh, per un minimo, ma è una gentilezza che si fa a Brunetta e anche alla società, perché non hai questa angoscia veramente di qualcuno che non ce la fa. Bisogna aiutarlo. Oppure una scaletta, ecco, la scaletta forse è meglio, perché uno si regola da sé. Ma non insisterei, perché non è mai gentile approfittare della situazione fisica di un personaggio per denigrarlo. Perché guardiamo invece il suo cervello, quello sì che è una cosa che bisogna denigrare. Bisogna denigrare il suo cervello. Sì, cioè le sue idee. Cioè, figlia per il culo pure. Non bisogna fare ironia sulle caratteristiche fisiche delle persone. Invece sul cervello sì. Dai, su, però. No, sulle sue idee. No, dai, non sul però, cervello. Dire, fu molto violento su Brunetta. Ma sulle sue idee. No, ma, no, non era una questione. Il seggiolino, eccetera, no. Vabbè, ma lasciamo per. Ma chi se ne frega, va bene. Tanto quando è dalla parte. Cioè, quando uno sta simpatico a una persona, anche se questa persona dice delle cose tremende, orribili, va bene lo stesso. Cioè, tu, quando invece le dice un tuo nemico, queste parole sono da condannare come razziste. Se l'avesse dette Salvini di qualcuno avesse detto orrore. Salvini, perché non scusa fa... ma credo che Dario Fo che cosa ha fatto nella vita? Non ha fatto politica, non cioè, fa vabbè, non ci giustifichiamo Salvini dietro la... fa il politico, non ci giustifichiamo di un partito, non ci giustifichiamo dietro la questione, non mi risulta che Dario Fo sia stato leader di un partito. La divisione tra Dario Fo comico e politico, specialmente negli ultimi anni, non ha alcun senso. Come no? Fa ridere, ha sempre fatto il comico, l'attore, il grande caso, commediante. In questo caso, quando uno gli fa una domanda su Brunetta, non è comico manco per niente. Cioè, come no? Nel pieno della sua attività politica, in quel momento, comunque di attivista, simpatizzante, amico di Beppe Grillo e dei 5 Stelle. Punto e basta. Allora, a proposito sempre di Dario Fo, poi chiudiamo, che non so quanto interessi. Beh, molto. Se interessa. Allora, Brunetta di oggi che ha detto: con me ha usato accenti razzisti, questa cosa non la dimentico, proprio poche ore dopo la morte. Come per tutti i morti, pace all'anima sua. Non l'ho conosciuto, non mi è mai piaciuto, l'ho considerato sempre... Un nemico politico, immagino. No, io non ho nemici, solo che nei miei confronti si è espresso con accenti razzisti. Lo dico in vita... pace all'anima sua, in morte. Signor Brunetta. Vabbè, troviamo un altro che ha parlato male di Dario Fo. Chi è oggi? Santa che. Ma lì ci sta, perché Brunetta ha avuto lo scontro diretto con lui, quindi ci può stare questo rigore. Sì, utilizza la parola accenti razzisti, razzisti. Vabbè, ma lì fa... ma la polemica no, ci non... sta. Si è colto nel vivo, è protagonista della polemica, va bene, Santa ok. Che. Le piaceva Dario Fo? No, assolutamente no. Per carità, è morto, pace all'anima sua. Non mi è mai piaciuto, lo trovavo assolutamente super ideologico, straideologico, non mi regalava emozioni, non mi faceva ridere, non mi piaceva quello che ha fatto, quello che faceva, per cui voglio dire, il mio giudizio da vivo è assolutamente pessimo. Allora, vi faccio sentire. Penso sia il regalo più bello fatto a Dario Fo, guarda questo. Cioè, il giudizio negativo della Santanchè. Penso, caro Dario, che ovunque tu sia, con Franca, Giorgio Gaber, Renzo Iannacci, penso che ti stai facendo una grande risata. Ti stai facendo una grande risata e dici: beh, meno male. Meno male che anche da morto quella mi disprezza. Altrimenti mi sarei preoccupato. Bravo, Dario, il più bel regalo a Dario Fo hai fatto. Allora, hanno scoperto che una famiglia che vive in un campo rom di Torino, del Piemonte, caro Parenzo, ha messo da parte qualche milioncino di euro. Vabbè, se sono illeciti l'hanno sequestrati. Ma no, ma che dici, sono tutti leciti, per carità. Fatti con il sudore della fronte. Non lo so come le avranno denunciati. Certo, un po' di sudore per il rame, bisogna utilizzarlo. Se è denaro illegale, via, tutti denunciati. In galera. Denunciati, portati in galera, ma subito. Ma secondo te... Cioè, alcuni di questi tizi del clan degli Alilovic, quelli sono dei criminali, prendevano però anche dei soldi pubblici, dei sussidi pubblici. È il tesoro dei nomadi delle baracche di Torino. Senti le voci. Da dove arrivavano quei soldi? I soldi? Da giù, li trovavo per terra. Dalle spazzature. Però hai ragione te, no? Cioè, il fatto che parlano, capito? Cioè, parlano troppo questi rom. Cioè, ti pigliano pure per il culo. Trovato soldi per terra! Io ho trovato soldi per terra! Sì, sono un po' sgrammaticati nella loro... Non hanno una strategia... Comunicativa. No, non ce l'hanno. Sono anche generosi nella loro ingenuità, generosi. Generosi tra di loro, può darsi, sì. Beh, se gli metti il microfono soldi, dice, tu ruba... No, non ruba! Sì, no, sì, dicono... Sì. Cioè, non è che il criminale vero si sottrae, cioè, dice, lei è un assassino... No, che assassino, no! E invece questi, ma sì, può essere corrupto. Con la pistola fumante in mano. Sì, loro invece ti dice, sì, ma roba, sì, roba. Tanti da qui hanno poi trasportato in Erbazia i soldi. E poi lì hanno depositato per motivi di interessi, perché qua in Italia ha chiuso interessi. E davano sette mesi, e c'era un guadagno. Quanti soldi erano? Tanti, 5 milioni. Sì, ma un gruppo di 27-28 persone. Ma a lei, ad esempio, quanto hanno sequestrato? 80.000 euro. Ma hanno detto 500.000 euro. Non è vero. Ma tutti i risparmi, tutte le dimostrazioni che hanno dimostrato di avere il reddito qua in Italia. Quanto ne ha sequestrato lei? A lei? Quanti erano a notte? 700.000 euro. Sì. Lei, la signora di 700.000 euro. E lei? Sì. 700.000 euro, 80.000 euro. Cioè, questi qua stanno dentro un campo nomadi, un campo rom. Alcuni, ripeto, alcuni prendono un sussidio pubblico. Poi chi c'ha da parte 80.000 euro? Chi 700? Chi 400? Ma non possono affittarsi una casa. Ma quello è sicuro. Ma anche questo però sarebbe curioso da analizzare dal punto di vista sociologico. Cioè, tu hai tutto quel denaro là e preferisci stare nelle baracche sporche. Sarà interessante da capire anche questo. Te credo, sono rom. Ma come te credo? Sono rom. Dipende, non vogliono andare nelle case normali. Ma non tutti, non è vero. Non vogliono andare nelle case normali. Non ci vogliono andare. Non è nella cultura. Non affittano un appartamento come facciamo noi. Non lo affittano. Ma non è vero. Non gliene frega niente. Stanno lì nella merda. Non tutti. Non piace a molti di questi qua. Piace stare nella merda, diciamo la verità, stare nella merda. Alcuni e piace stare in un posto, non è che sono rom, alcuni sono dei criminali e vivono criminali ai margini della società, e alcuni piace un posto dove altri no, lavorano e altri si affittano la casa. Ma quanti? È pieno di esempi. Lo 0,5, dai, ma non so io le percentuali di questa roba, non ma lo gli so, piace ma... stare là nella merda, dove possono mettere i soldi dentro la terra, dove possono gestire loro come cazzo vogliono il loro business. E quello è il punto fondamentale, che gliene frega di avere la casa normale dove c'è la cucina comprati in maniera regolare. Sai come fanno le coppie quando vanno a comprare una cucina nuova? Non si fanno il giro dei posti? No, non è che loro fanno così. Non esiste questa cosa. Cucina con cucinino, cosa. Ma no, così. Ma loro, tra l'altro, fanno anche un lavoro utilissimo, perché peraltro vanno a rovistare. No, ma spesso spesso fanno quello che, ad esempio, la raccolta rifiuti non fa. Spesso quelli che dovrebbero raccogliere i rifiuti vanno a prendere le cucine quando tu butti quella inciviltà assoluta di buttare gli elettrodomestici. Cioè, sono meglio degli italiani. Sono meglio degli italiani. Ho detto che spesso vengono buttati, noi buttiamo gli elettrodomestici appena si rompe qualcosa. Non so dove spesso lo fanno. Vengono buttati. Ah, gira tu per Roma, sì, vai a vedere come vero. La gente butta per strada elettrodomestici rotti. Bene, l'ama non viene a ritirarlo. Questi passano con la loro carrozzina scasciata, i loro vestiti, tu che li guardi, loro che sono sicuramente sporchi, brutti. E che fanno? Fanno un lavoro utile. Prendono quella roba lì casa se lo risistemano, che è buttato, e poi se lo risistemano. Lavoro utile, perché secondo sono Parenzo, lavoro utile. Vai. Abili nel fare questa... smaltiscono quei rifiuti che spesso non vengono smaltiti. Pensa a te. Più una Tania, meno Parenzo. Più Natania, meno Parenzo. Traffico. La Zanzara. Allora andiamo, partiamo Parenzo, partiamo, partiamo, sei caldo, eh? Per sei, dove partiamo? Sei caldo o no? Sei no, caldo no, o no? No, non moderatamente, normalmente, no, devi, normalmente. Devi gasarti, quando sei gasato la gente ti vuole gasato, sono ti vuole gasato caldissimo, caldissimo, normalmente. La gente ti vuole caldo nel reagire a quella... So che alle mie spalle in questi due giorni, i soliti miserabili hanno fatto i loro commenti no. sulle festività, no, mi hanno, poco, mi poco. Hanno riferito. No, no, nessuno, nessuno, però, nessuno. Però, no, vabbè, nessuno, vabbè, nessuno, insomma, nessuno. No, ti hanno riferito male, ti hanno riferito male, nessuno è ironizzato. Sulle festività ebraiche, ma zero proprio, qualche ascoltatore, ma due su internet, ma, qualche miserabile. Sì, ho capito, ho visto. Che cazzo c'entra la radio? Nessuno, non ho ospitato nessuno no. Che ha insultato su questo. Nessuno, anzi, comunque, sono qui. La gente era molto dispiaciuta della tua assenza. La gente, gli ascoltatori di questo programma, la gente con quante ti fa schifo. La gente, ti fa schifo. Ma no, non mi fa schifo. Clotilde, provincia di Roma. A me piacciono gli ascoltatori, ma non i telefonisti. Ma che cazzo c'entra? Io ho rispetto per chi ascolta, nessuno per chi chiama. Ecco, questa è la distinzione. Sentiamo se hai rispetto per Clotilde. Poi dipende da quello, dipende, che dicono, ovviamente. Dipende, appunto, esatto, dipende, ovvio. Pronto? Clotilde, dimmi, Clotilde, dimmi. Eccomi qua. Allora, volevo dirle una cosa, signor Cruciani. Mi dica, mi dica. Che prima di parlare di Dario Fo, sì, sì. Si deve sciacquare la bocca. Me la sono volte. Sciacquata, aspetta. Mi sciacquo ma la con bocca. L'acido muriatico. No, è l'acido no, perché mi fa male. Dunque, utilizzo peccato. L'acqua, se lei consente, se lei consente, se lei vuole. Peccato, peccato. No. Perché senti, lei io posso parlare di chi, saputo... cazzo mi pa- di chi cazzo mi no, pare, no, hai capito? Ma con me non parli in questo modo. No, io parlo io con lei come insultando. Voglio. Come voglio. Beh, no, beh, l'acido come muriatico, vuole. Come hai detto, l'acido muriatico in bocca. Vabbè. Vabbè, vabbè, e perché allora, va bene l'acido muriatico in bocca, va bene, ricorda, va bene l'acido muriatico, va bene. Cioè io ho detto cazzo e non va bene, l'acido muriatico va bene. Ma si tappi un attimo la bocca e ascolti, impari no, ad ascoltare. Fammi stare zitto, fammi ecco, stare bravo, zitto, amica mia! Amica mia del cavolo, allora, le stavo dicendo, lei non si ricorda la sei storia sarda, della moglie Clotilde, di Santa? Sei sarda. Sei sarda? Certo che sono sarda. Sì, no, niente, sono era la cosa, era l'inflessione. Sì, che si sente il mio accento, sì, sì. E sono orgogliosa che si amica senta. Mia, io sei faccio... contro di me, ma io ti cucino al volo, ti posso cucinare lì. Ti cucino lì, ti cucino sì. lì, ti porto dalla mia parte in 10 secondi, ti porto dalla mia parte in 5 minuti, ma 5 minuti. Una... Ma non lo voglio fare, non lo voglio fare, non lo voglio fare. Ma non sono sogni, perché se c'è una persona che io detesto cordialmente, quella è lei. Bene, tanto che io mi continuo a chiedere come mai la lascio in Radio 24. Ma io mi domando come mai lei chiama, però. Questo è anche interessante. Perché c'è David Parenzo. Ecco, ah, questo buongiorno, è buono. Questo buonasera è signora. E infatti, signor David, mi scusi, volevo eccomi. Dirle che in realtà l'unica sì. persona che ha avuto da dire sul digiuno è stato proprio Cruciani. No, io non vedo. L'unico vedi. Che ha parlato. Si risenta un attimo le trasmissioni. Ma no, sì, vai a risentire. Adesso faccio la verifica. Zitto, infatti Cruciani. Sapevo. Vai a risentire. Brava la signora Clotilde, brava. Ecco, lei la telefonista è brava. Ma perché io impongo di ascoltarla. Me lo solo perché c'è Parenzo. Solo perché c'è Parenzo. Vabbè. A parte perché c'è Parenzo. Vabbè, Clotilde, allora. Per vedere veramente le cavolate che dice lei. E le stavo questo dicendo. Lo so, l'ho capito. Ti ricordi quello che è successo alla moglie di Dario Fo? Sì, lo stupro, sì. che cosa? Vabbè, ma chi se ne frega? Ma che c'entra? Quella è morta, certo, è morto pure lui. Adesso perché dobbiamo ricordare lo stupro? Che e c'entra? Allora, perché lei si ricorda di quando lui era... Ma stiamo parlando della morte di Dario Fo e degli elogi no, e dei Peana. Ha tirato fuori cosa? Un paio di cose negative, delle le uniche. No, forse. Le uniche negative. Negative secondo lui no, evidentemente. Secondo me negative, non secondo lui. Ho detto no, semplicemente che nel giorno... Stato... Scusami, Clotilde, dopo ti rimetto in onda, non ti preoccupare. Nel giorno dei Peana, giustamente delle persone che ricordo il grande artista, io ho ricordato due o tre episodi, uno avvenuto qua in questi studi, anzi eravamo a Perugia, in cui diede del nano del seggiolino a Brunetta eccetera, un altro episodio diede pure del figlio di puttana a Berlusconi, fu uno scherzo con Casaleggio, un altro episodio, ma io dico va benissimo, però queste cose oggi le ricordiamo pure queste, Repubblichino, la Cina maoista, tutte queste robe qui fanno parte del bagaglio di Dario Fo, alcune volte le ha pure negate, noi le vogliamo ricordare. Arrivederci Cruciani, sei un fottuto epicureo senza Dio. Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi programma radiofonico, scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy, ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Il segnale orario vi è offerto da L'impressionismo di Zan Domenechi, in mostra a Padova, Palazzo Zabarella, fino al 29 gennaio. La Zanzara. Un anno che prendiamo per il culo mio padre, che va in giro in casa con gli auricolari, che ascolta la Zanzara e ride da solo come... come un fesso, e tutti gli dicono: ma sei una sociale, ma la sera ma stai con noi, ma ce ne ha, ma sei lui niente, la Zanzara ride e che ci fa due palle così con Cruciani e con Parenza, cioè. E oggi imbecille, il coglione sono io, che in metro o in basso o per strada sono solo con un imbecille che rido tranquillamente, felice, contento, la gente mi guarda male. Ragazzi, ci aveva ragione lui. C'aveva ragione mio padre, un grande cazzo. Tanto mi sta ascoltando in giro per casa con gli auricolari, sicuramente. Grandi ragazzi, continuate così. Allora ragazzi, le frasi di Alfano su Lampedusa, le abbiamo raccolte credo dall'intervento di Alfano, non so dove, a quale congresso dell'ANCI credo. Alfano a un certo punto dice che a Lampedusa, grazie anche al fenomeno dell'immigrazione, le presenze turistiche sono aumentate del 36%. Dunque, ergo, gli immigrati fanno bene al turismo dell'isola di Lampedusa. Chissà cosa ne pensano a Lampedusa, Sono stato lunedì scorso a Lampedusa nell'anniversario della strage. Sapete di quanto è cresciuto il turismo a Lampedusa? 36% nell'anno 2016. Vuol dire che accoglienza del migrante non significa negare accoglienza del turista. Questa è la grandezza di un popolo e questa è la grandezza del nostro paese. Ancora. Ancora, fatemelo risentire un attimo. Sono andato a Lampedusa e ho riscontrato che il turismo è aumentato del 36%. Capito, Parenzo? Il 36% in più. Il turismo a Lampedusa. Saranno date che gli hanno dato gli albergatori, no? Non è che se l'ha inventati lui il 36, no, che si è inventato il... Adesso io non lo so. Se vuol dire, no? Lui non è che ha detto che i migranti portano turismo. Sì, nella sì, frase, sì. No, tutt'altro. Sì. Nella frase che hai fatto sentire, lui giustamente ha detto, quindi non è vero che nonostante l'accoglienza diminuiscano allora, i turisti. Allora, ha detto, perché poi non c'è l'altra parte, l'elemento dell'accoglienza di Lampedusa è diventato un elemento che fa parte del brand. Certo, cioè, fa parte anche... La presenza degli immigrati a Lampedusa, la presenza degli immigrati a Lampedusa fa comunque aumentare l'afflusso. Cioè, siccome Lampedusa è riconosciuta come... l'isola che ospita una grande terra di accoglienza, la frontiera, no. Prima quindi e allora è... questo fa aumentare la, a parte che si fermano e infatti si fermano pochissimo a Lampedusa i migranti, perché poi vengono smistati in tutta Italia. Adesso lascia perdere il fatto che no, ma lui ti ha detto, lui dice una cosa che non è che dice che si è inventato il dato del più 36% degli alberghi, quello sarà un dato facilmente riscontrabile, no? Ci sono venuti i turisti nonostante la presenza dei migranti? Lui dice ma lui sì. Vuole dire che in sostanza, siccome Lampedusa è l'isola dell'accoglienza dei profughi, questo qua non ferma i turisti. I turisti vengono lo stesso, anzi di una più. Cosa anzi logica di più. Anche. Ma no, di più, vengono nonostante si dica che quell'isola è, che è vero, la frontiera dei migranti. A proposito di migranti, tre pakistani, credo non regolari, in Italia da più di un anno, hanno stuprato una ragazza di 22 anni. In realtà adesso dicono che in realtà questa ragazza di 22 anni l'hanno pagata, cioè lei sostanzialmente era consenziente, poi cosa significa consenziente non si capisce. È successo in provincia di Brescia, a Chiari. Senti che dice la signora Beccalossi: gli stupratori fuori a calci senza processo. Ma che vuol dire gli stupratori? Anche quelli italiani fuori a calci senza processo? Non ho capito. Una ragazza a Brescia di 22 anni è stata stuprata da tre richiedenti asilo politico, va bene? Allora io credo che questa gente vada presa, se straniera, calci nel sedere, fuori dal nostro paese, ah, no, anche senza processo. Guardate, io sono anche del parere, ma non facciamoglielo processo, perché il punto è che noi qua, con un processo che gli garantisce di stare in galera sempre molto poco, comunque gli diamo un tetto sulla testa e tre pasti caldi a prescindere. Scusa, però se vanno fuori senza processo, può darsi pure che se la cavano, Beccalossi, cioè bisogna mettersi d'accordo. Appunto. O li condanniamo oppure non li condanniamo. Appunto. Se non li vogliamo condannare, li mettiamo fuori o rientrano oppure. Appunto. Oppure senza processo è un po' un problema, senza processo. Tu dici non li vuoi ospitare nelle nostre patrie galere, questi signori pakistani stupratori, sembra stupratori di una ragazza di 22 anni? Va benissimo, però non è che li puoi mettere in libertà, fuori a calci nel sedere. No, a calci nel sedere dove? Cioè in libertà, affidati al loro paese d'origine, in Pakistan. Non lo so, è complicato. Condanniamoli anche severamente, no? O no? Eh beh, certo. Oppure mandiamoli via con un accordo col Pakistan. Che cazzo, scusami, ne so? Ma se spesso noi volevamo, se noi volevamo processare in Italia quelli del CERMIS, gli americani del CERMIS, non si capisce perché non dobbiamo processare in Italia gli stupratori pakistani. C'è una follia nella signora, nella fatina bionda, se non ricordo siamo male. Beccalossi. Senti questa voce fantastica in Sardegna contro gli immigrati, di un signore sardo, senti. Bene. L'unico problema più grande è che ci state mettendo a repentaglio con queste persone, perché stanno distruggendo la nostra isola. Ma non sono ancora arrivate, signore. Senza darle niente. Ma chiedo scusa, ma quali sono? Evidentemente c'è un pregiudizio. Sono buttati nelle piazze, ma se non c'è ancora nessuno. Facendo la pipì di scusi, signore. Signore, ma parliamo di una situazione non ancora definita. Indovinate che programma era, Parenzo, secondo te le piazze, le ma piazze con l'italiano incazzato. La quinta colonna, sicuramente. Sì, no, in realtà era l'altro, è dalla vostra parte. Sì, comunque. Dalla vostra parte, meraviglioso, dalla vostra parte. Telecamera su una piazza, telecamera su una situazione, italiano incazzato con gli immigrati. Carambue o qualche palandrana in studio a dire razzisti, siete razzisti. Sì, qualche razzista che ormai li trovi, i razzisti ormai li trovi così, esci di casa, scusi lei, arrivano subito, a flotte arrivano i razzisti. Altro no, che più numerosi dei migranti che arrivano sono i razzisti, ormai li trovi così, è un buonissimo mercato, adesso, dai, molto esagerare. Più numerosi. Allora andiamo con Luca, vai. Sì, Cruciani, ti volevo dire una cosa. Dimmi, caro, dimmi. Riguardo a quello che hai detto su Dario Fo, sì, che, sentendo come eri molto accalorato sulle negatività che te ha commesso questo signore. Non ho detto che sono negatività, ho detto che sono delle cose oggettive, punto. Cioè c'era un Dario Fo che oggi non viene ricordato, che ricordano in pochi. Però, che era Dario Io scommetto questo, che se lui non fosse stato pro Movimento 5 Stelle, tu non l'avresti neanche citato. Ma figura, a me che cazzo me ne frega, io l'ho pure votato una volta al Movimento 5 Stelle, figuriamoci. Sì, ho capito, però... Ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Vuol dire, secondo me, perché... Cioè, che cosa? Non ho capito. Non si parla, tu, mi è sembrato che una puntina di ipocrisia... Ma guarda, io non ho proprio citato il Movimento 5 Stelle, proprio non l'ho citato, non c'entra niente. Passare il tuo intervento come controcorrente, perché parlavi male invece di parlare bene di un, come fanno tutti, e invece questa è la tua ipocrisia, e invece secondo me sotto c'era il fatto che praticamente essendo lui pro 5 Stelle e tu lo ma non c'entra, non ho manco citato i 5 Stelle. Vi leggo una cosa che circola sul web. A proposito di Dario Fo, senti la follia dove può arrivare, Parenzo. Hanno trovato il modo di vincere anche questa volta. Dario Fo, recentemente convertito ai 5 Stelle, stava facendo troppa propaganda a favore del no. Possibile che Renzi, aiutato dai suoi amichetti della CIA e della mafia massonica sionista, credo che nemmeno Mauro da Mantova potrebbe arrivare a cose di questo tipo, abbia pensato di toglierlo di mezzo a meno di 2 mesi dal voto? No, non voglio sembrare troppo sospettoso, ma non mi stupirei se da qui a dicembre crepassero in strani incidenti anche Grillo e Travaglio. Sveglia gente. Ma chi è questo qua? Uno che c'ha il simbolo su Facebook del comitato per il no. Un webete classico. Carlo webete. Da Milano, vai Carlo. Pronto? Pronto, ciao carissimi. Dimmi, dimmi. Pronto. Allora, io vorrei che in Parenzo mi chiarisse una piccola cosa. Pronti, prima eccoci qua. Hai detto, ciao, sì. Hai detto che i Rom, scusa se io preferisco chiamarli zingari, sì, fanno anche un'azione sociale che è quella di ravanare nella spazzatura, recuperare oggetti che noi... Ma non è vero, non c'è nessuna... è visibile a chiunque. Ma non c'è nessuna operazione sociale, stanno nessuna. Stanno lì a ripulire i cassonetti, a cercare materiale buttato via. Ma quando? Prendono le cose... Ma non si possono prendere dei cassonetti, ma non si possono prendere le cose dentro i cassonetti. Siamo tutti d'accordo, ma prendono le cose dai cassonetti e se le portano a Calolo e le ritrasformano, ecco. Ma le trasformano di che le bruciano spesso, allora, non dire cazzate, dai. Ascolta, anche certo, allora spiegami purtroppo come anche mai, passando banalmente dalla tangenziale di Milano, dove ci sono, dove si vedono questi campi ovviamente abusivi, ma che sono lì da anni e anni, ci sono tonnellate, montagne di spazzatura. Cosa sono? Quella spazzatura lì, sono loro che la prendono nei cassonetti, la portano in giro. Non sono abituati, la buttano via quella roba. Perché spesso, anzi, a parte che spesso svolgono quel lavoro sporco con quale lavoro? Guarda, come ha dimostrato, guarda. Il lavoro di chi? Non ho capito. Ti dico, hai visto il servizio che ha fatto Sara Giudice per Piazza Pulita 2 settimane fa, che è stata pure menata da un italiano. Come cosa c'entra? Sara Giudice del suo servizio ha dimostrato che nella catena dello smaltimento illegale dei rifiuti, i Rom sono un pezzo della catena. No, esattamente della stessa. Fermo, questo lì ha dimostrato Sara Giudice. Che c'erano. Vabbè, ma che c'entra adesso questo? E com'è bello viaggiare sentendo la zanzara. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la zanzara. Anche in Sardegna bisogna chiamare sindachessa, assessora, non ce la faremo mai. Siete ridicoli con queste sindaca, assessora, ministra. Ma io cosa faccio, il chitarrista, il camionista? Capre, capre! Giuseppe, io ora ho finito di sentire il telegiornale, sta cosa qua degli altri. Mamma mia, viene una rabbia. Dei nomi maschili e femminili mi sta facendo venire il sangue alla testa. Cioè, io mi vergogno di essere poi chiamato camionista. Voglio essere continuato a chiamare camionista. Non rompessero il cazzo. Allora, pare incredibile, ma la Boldrini fa un po' di proseliti, purtroppo. E dobbiamo sopportare il fatto, poveri sardi, che in Sardegna il Consiglio regionale ha promulgato addirittura una legge regionale che obbliga, non si capisce che cosa, anzi sì, si capisce, la burocrazia in realtà. Cioè, nella terminologia della burocrazia, delle carte bollate, praticamente, a chiamare il sindaco, anche la sindaca quando è femminile, e assessora quando l'assessore è femmina. Una puttanata inaudita, cioè... Tra le preoccupazioni di questi signori alla regione c'è quella di cambiare la terminologia delle frasi, perché è troppo maschilista, perché la burocrazia sarebbe troppo maschilista. Allora, se io per una volta, vi giuro, per una volta dovessi cadere in questa trappola di chiamare qualcuno sindaca perché è donna invece di sindaco, o assessora invece di assessore, mi dovete abbattere. Occhio che qua qualcuno ti prende in parola, No, ma abbattetemi, perché io non mi arrenderò mai di fronte a questa follia, non mi arrenderò mai, perché io sono sicuro che la maggior parte delle donne di questo paese sono delle persone ragionevoli, cui non frega nulla di queste puttanate qui, di questa cosa inventata dalla Boldrini. Chiunque si adegua, che sia il giornale radio di questa emittente, che sia un giornale, che sia, secondo me è un errore tremendo, un errore terribile. Per carità, non è la fine del mondo, cioè, non è che c'è l'apocalisse, ma è un errore arrendersi di fronte a questa cosa patetica, ridicola. È semplicemente più facile dire assessore a qualcuno invece di assessora, dire che ne so, cioè avvocato invece di avvocatessa, anche se spesso si dice avvocatessa lo stesso, sì, perché poi è entrato nello slang, no, avvocatessa, esatto. Ma dire sindaca, sindaca, a parte che io un avvocato donna dico avvocato, tranquillamente, un avvocato donna la chiamo avvocato, non sì, avvocatessa, quello è più complicato, e tu dici avvocato, che dico avvocatessa, no? Ma io dico avvocato ovviamente, ma se poi questa mi dice no, la prego, avvocatessa, dico va bene, ma sì, va bene, d'accordo, ma non me ne frega niente, no, non mi rovina la giornata. Ma no, certo, quando si tratta di relazioni interpersonali no, ma quando c'è un obbligo che te lo mette per iscritto, una legge emanata dalla regione Sardegna che evidentemente non ha un cazzo da fare dalla mattina alla sera invece di occuparsi di queste cose, eppure non credo che i sardi sono così impegnati nel trasformare il loro modo di parlare, hanno questo altri problemi, ci sono altri problemini per i sardi che non sicuro. Dire la burocrazia deve cambiare, deve chiamare una sindaca invece di sindaco, dai, su. Va bene ragazzi, andiamo, dove andiamo? Sergio Genova, vai Sergio. Eccomi. Dimmi. Mi senti? Allora Cruciani, buonasera. Dai. Un saluto particolare a Parenzo. Saluto a Parenzo. Bene, voglio salutare Parenzo. Va bene. Ti saluto. Buonasera, caro. Non fa nessuna fatica a sopportarmi. Non fa nessuna fatica, non ti preoccupare. Ma comunque, non fa volevo tornare su quanto detto da Fo a Brunetta. Che è successo? Ha detto che bisogna alzarlo su uno sgabello, una cosa di questo genere. Sì, ma la domanda che faccio a Cruciani è vero o no che è piccolo? Perché sì, ma certo, dire, l'ironia sull'altezza di Brunetta è una vecchia storia, non è certamente primo Dario Fo ad aver utilizzato qualche anno fa questa cosa. Ma certo, un quotidiano l'aveva definito il nano più alto del mondo. Ma sì, ma non c'è nessun problema, però detto questo, ripeto, trattare Brunetta come una specie di nano da giardino, citando il cervello, quello andrebbe... non lo so, cioè, no, nelle caratteristiche lo potrei fare io, ma nelle caratteristiche di Dario Fo non è che sia proprio, no, una cosa democratica, non è che sia una roba de sinistra, non so come dirti, no? Ecco. No, va bene, no, non va bene nemmeno questo. Alessandro da Milano, vai. Va bene, ma voglio dire, sul cervello, evidentemente che lo ritenevo una persona poco acuta, perché voglio dire. No, ma quella è una critica che ci può stare. Quello era un riferimento, però. Cioè, il riferimento era al cervello piccolo. Penso che non sia l'unico, tra l'altro. Francesco da Roma, vai, Francesco. Io non ho capito, Sergio, che cosa cazzo hai detto, però. Qual è il punto? Cioè, tu sei d'accordo con Dario Fo? Cioè. Francesco, Roma, vai. Pronto. Giuseppe. Vai, dimmi. No, ti volevo dire che io vado da anni solo con Cougar, con i più grandi. Aspetta, alza un po' la voce, se no non capiamo. L'influenza. Ti dico, io da 10 anni ormai vado su a quarantenni, dirò molto meglio. Però, Francesco, aspetta, veramente non ti sentiamo bene. Allora, tu vai solamente con donne... Tu quanti anni hai, Francesco, scusami? Io ne ho 33. Hai 33 anni. Okay. E vai con donne? Beh, sui 40-45. Ma non mi sembra una cosa così eccezionale, scusami se te lo dico. E merita una telefonata in diretta a una radio, questa cosa qui? Ma evidentemente sì, per Francesco. Ma siamo d'accordo, dopodiché posso stupirmi e dire, ma no, con tutti stupirti. I temi che, di cui si può dibattere animosamente anche nel corso della giornata, dal nuovo scontro dalle Marenzi, alla questione dei migranti, alla scuola, emergenza sicurezza nelle scuole, a tutto quello che, ma anche a Francesco vuole parlare dei cazzi Francesco suoi. Vuole parlare dei cazzi suoi. Che lui all'età di non so quanto, 33 ha detto, 33. Sì, va, con donne, va. C'ha una voce da settantenne che quindi si faccia curare, perché mi pare la situazione drammatica. Mal di gola, Davide. Ma sì, anch'io l'ho avuto, malissimo. Mal di gola, che deve fare? Comunque ha una voce d'anziano e quindi a quell'età avrà avuto una vita da malvissuto e si vede. Però al di là di questo, dico, ma le sembra normale telefonare alle 19:43 alla radio? Ci vuole informare adesso per dirci che lei ama andare con delle donne anziane. Ma io non lo so, dove siamo arrivati? Dove siamo arrivati? Che interesse nazionale ha questa cosa? Per me è un grande interesse questa cosa. Davide, un grande interesse. Non mi fare il solito personaggio così, perché no, ma non lo so, ma le chiedo. Ad esempio, io non dico di discutere del referendum, le palle girate. Carità. Ha detto che ha le palle girate. Scusi, oh Francesco, perché le palle girate, Francesco? No, non ho le palle girate, però se Timo Parenzo come fa il solito personaggio, questo no, ho detto solo una cosa che penso siano anche sono neanche di migliore compagnia, siano più piacevoli, siano anche più consapevoli. Sì, ma non mi pare una cosa, tu a 33 anni vai con donne che sono dei 40 in su, non mi pare, a me si detto, che ne so, ho 33 anni, mi piace andare con una di 60, però, allora dice, vabbè, tu allora... Tu riconoscerai che molta gente invece va tra con ragazze dai 20 ai 25, cioè, sono più gli uomini a un così. Certo punto, dopo i 30 anni, preferiscono andare con donne più giovani, sì, vabbè, questo lo sappiamo. Ecco, quindi, cioè, vedi... Allora, perché ti piacciono donne più mature, diciamo, arriviamo a questa conclusione, Francesco, perché? Sono più consapevoli di se stesse, sono anche mettere metterti più a tuo agio, sì, ed è una cosa sicuramente migliore. È una però devo dare ragione a Parenzo in questo caso, devo dirti la verità, perché tu non ci stai comunicando una storia straordinaria, no, non ci stai comunicando nulla di particolarmente speciale. In questo caso devo dare forzatamente, devo dire ragione a Parenzo, perché certo, uno chiama e dice: guarda, io a 25 anni mi sono innamorato di una settantenne. Dice: vabbè, è una storia curiosa. Parenzo non interessa, però magari no, no, no, questo può essere già più interessante. Ma se mi dici: ho 33 anni e mi piacciono le donne dai 40 in su, ma anche a noi che cazzo ce ne frega, scusa, cioè, abbi pazienza, Francesco. Ha ragione Parenzo in questo caso, devo dirtelo sinceramente. Cioè, non c'è nulla di eclatante. Non c'è nulla di eclatante. Che io ne conosco tantissimi di storie come queste. Ma sì, no, non c'è nulla di eclatante. Non è che mi hai detto: le preferisco, che ne so, sposate dai 55 in su, e, cioè, e dici: vabbè, là c'è un mondo già diverso che si dipana, che ci si apre. Di diciamo fronte, che no? Anche le mamme mi attirano molto. Vabbè, ma anche questo non è talmente comune. Sì, è talmente anche questo. Non è, non anche è, questo nulla non è, di scandaloso. Sì, nulla di scandaloso. Il problema è che ormai lo scandalo è talmente alto che lei proprio deve dire una cosa clamorosa. Perché, ad esempio, sono stato ieri con una donna sposata, poi c'erano i figli nell'altra stanza, è arrivato il marito, mi sono chiuso nell'armadio. Ecco, già questo magari può diventare più. Ragazzi, il resto è ordinaria amministrazione. Ha ragione, Parenzo, è ordinaria amministrazione. Ormai, dico, perché è tutto degradato, quindi ormai figuriamoci. Ciao, talmente tutto degradato che. Allora, sai il Papa che ha detto oggi, Parenzo? Sì. Che è ipocrita chi si dice cristiano e caccia i rifugiati. Certo, questo è ipocrita chi si dice cristiano e caccia i rifugiati. Perché nella dottrina è certamente. Allora, amici miei, però non è che il Papa si vuole mischiare delle politiche degli stati. Lui fa il Papa, infatti. Si mischia delle politiche. Dice: quei politici che vogliono, quei politici che si dicono cattolici, che si dicono cattolici e poi vogliono mettere un po' di ordine, e magari, no? Improntano la loro azione Ma politica questa è una tua interpretazione. Dicendo: noi siamo cattolici, e poi vogliono prendere a calci nel sedere i ciabattanti, e qui virgoletto parole testuali della cosiddetta Lega Nord per la fu indipendenza della Padania. Il Papa dice, forse non parlando solo della Lega, ma anche del tuo amico Trump e tutti questi altri personaggi e personaggetti che popolano ormai il nostro Europa barra mondo, dice: questi almeno non dicono di essere cristiani perché non hanno nessuna pietas. E sentiamo, allora, questo è il punto. Forse c'è un riferimento a Matteo Salvini. Sentiamo, no, Matteo Salvini. Buonasera, so. Salvini, buonasera, buonasera. Allora, il Papa si riferisce, immagino, anche alla Lega, diciamo la verità, insomma, adesso, non direttamente, però il Papa avrà pensieri più importanti che non Matteo Salvini. No, quello non c'è dubbio, spero per il Papa, signor Papa, che non si interessi in particolare del signor Salvini, però è ipocrita chi si dice cristiano e caccia i rifugiati. Allora, ti riconosci in questo quadro? Ma se ci fermiamo al suo termine tecnico, sì, rifugiati. Rifugiati, perché Parenzo si ricorderà che quest'anno su 70.000 domande di asilo politico presentate in Italia, di cui oltre 60.000 uomini, quindi donne, bambini, anziani, non ci sono. E i rifugiati sono una minoranza. Le accolte da rifugiati sono state 3.000. Beh, c'è un numero consistente. Sì, però il Papa si Quindi se io devo stare alla grammatica del Papa, il Papa non si riferisce a questa roba qua, dai. Il rifugiato in quanto tale, quindi 3.000. Sì, ma non si riferisce a questo, cioè se invece tu vuoi sottendere che il Papa inserisca migrante economico, ma certo, il tutti i migranti, climatico, il migrante, cioè, tu non ti puoi dire, tu non ti puoi dire cristiano se vuoi bloccare i migranti, se vuoi bloccare l'arrivo dei migranti. Questo lui è il Papa. Ha detto rifugiati, e su questo concordo. E tutto il resto del mondo che rifugiato non è, e in Italia stasera ne stiamo ospitando 170. No, aspetta, aspetta, aspetta, ti completo la cosa, ti completo la cosa. È ipocrita essere cristiano e cacciare via un rifugiato, uno che cerca aiuto, un affamato. Cioè, se arriva un affamato che cerca aiuto, l'affamato è anche sul mio pianerottolo, l'ho trovato oggi fuori dal supermercato a Milano, l'affamato era italianissimo, perché probabilmente non ha stasera un posto in albergo gestito dalla Caritas o dalla cooperativa XY. Allora il Papa dice che se uno ti chiede qualcosa perché ha fame, ma è quello che dice il Papa. Io non sto dicendo tu non farmi, se vuoi non mi vuoi rispondere. Ma tanto oggi il Papa ha detto che bisogna accogliere i rifugiati, Renzi ha detto che bisogna accogliere i rifugiati, Mattarella ha detto che bisogna accogliere gli immigrati, Alfano, se lo sentivo prima da voi, ha detto che addirittura gli immigrati portano turismo a Lampedusa. La Sardegna ha una disoccupazione giovanile superiore al 56%, quindi vuol dire che un ragazzo sardo su due deve scappare in continente, allora... all'estero per lavorare. Allora qual è la soluzione per Alfamo? Riempiamo la Sardegna di immigrati così arrivano un sacco di turisti a vederli. Ragazzi, stiamo scherzando. Io ricordo comunque... Sì. Semplicemente che lo stesso catechismo della Chiesa Cattolica, quindi l'ha scritto il Papa, non io, allora? Ricorda che l'accoglienza è dovuta nei limiti del possibile. Mm. E io penso che in Italia questi limiti del possibile siano stati superati. Ma la Chiesa, guadagna sugli immigrati? Una parte te? Di Chiesa si guadagna sicuramente, così come una parte di finte cooperative. Il Vaticano specula sull'immigrazione? I signori del Vaticano speculano? Ma non facciamo di tutta l'erba un fascio, come non esiste il Vaticano. La Lega esiste, ci sono tanti che stanno facendo business sull'immigrazione, alcune pseudo associazioni cattoliche, alcune pseudo cooperative. C'è chi ci sta facendo miliardi di euro. Ma anche il Papa, dunque, in qualche modo. Cioè, anche il Papa. No, ma il Papa non pensa. Il Papa lancia dei segnali, secondo me, che poi portano dei problemi, perché quando il Papa va a Lampedusa a dire avanti tutti. C'è anche qui, quando uno dice ipocrita che difende Cristo e caccia i rifugiati, porta segnali negativi. Cioè, io farei sentire al Papa Radio Padania, guarda. Tutti, il Papa fa il Papa, poi il sindaco deve fare il sindaco, e siccome quando il sindaco ha in ufficio un italiano che gli chiede la casa popolare, il sussidio per il figlio, non glieli può dare perché non ce li ha, non si capisce perché ci siano questi due binari. Parenzo, che dici? No, io dico così, la prossima volta che il Papa fa una delle sue udienze in cui riceve il potere politico, suggerisco a Salvini di andare lì e digli: Santo Padre, io sono molto cattolico, lei, perché immagino che lei è cattolico, peccatore ma cattolico come molti, e vada lì e gli dica: ah, caro Santo Padre, le faccio sentire una cosa. Dice: cosa, figliolo? Guardi, ascolti cosa diciamo noi a Radio Padania. Gli mette un piccolo iPhone lì vicino, lo collega con delle cuffiette bianche, perché lui è tutto vestito di bianco, mette play sull'iPhone e partirà immediatamente Padania sempre libera, guarda avanti, e gli fa sentire cosa i suoi speaker di Radio Padania Libera dicono. Il Papa, secondo me, se non ha i medici, gli viene un coccolone lì se sente quello che dicono questi ciabattanti, affanculo, a calci nel culo. E il Santo Padre, quando ascolta con le cuffiette, no, ascolterà Radio Padania con le cuffiette, secondo me lì trasecola, arrivano i suoi dietro, no, i vescovi. Dice: Santo Padre, che succede? Ah, dice: sento parole di odio. Dice: no, ma che odio? È Radio Padania, amico mio, solo odio, no, molto di più. E quindi così si rende conto. Ma quello di che c'entra, è però. Mondo... Ma non c'entra quello. Vedrai cosa dico. Matteo, io non ho capito bene. Tu, per esempio, chiamerai mai un sindaco sindaca? Un sindaco donna? No, mai. Sindaco e sindaco. Ma sono le stesse donne che fanno il sindaco per la Lega a dirmi: mi raccomando, non fate quelle cavolate lì, l'assessora, la presidenta. Questa è una puttanata della Bodrini. Ma per favore, penso che sia una diminuzione anche per loro. Ricordo sommessamente all'accogliente Parenzo che ha 4 anni dal terremoto in Emilia, Renzi va a fare il fenomeno nelle zone ahimè, attualmente terremotate. Ci sono ancora più di 10.000 persone fuori dalle loro case. Vabbè, questo è un altro discorso, però. Un paese normale si occupa anche dei suoi terremotati rispetto a chi sbarca domani mattina a Lampedusa, che non scappa da nessuna guerra. Così sottovoce, sottovoce. Però scusami un attimo, sottovoce, perché questo... c'è qualche linea di febbre, però io ti ho detto questa cosa, sindaco, cioè i tuoi sindaci donne... i miei sindaci donne... Sindaco, sono tantissimi assessori in Regione Lombardia. Mai saranno chiamati assessore, eccetera, mai. Non li chiamerai mai, assessora... No, ma me lo dicono loro, per favore non farmi questo insulto, non chiamarmi assessora. Legittimo, giusto, va bene. È un insulto alle donne. Ma assolutamente, io penso che la grammatica da questo punto di vista sia risibile, preferirebbero di gran lunga. Ma poi il sindaco che ha sposato due omosessuali, lo cacci dalla Lega? Ma lì sono scelte locali, non conoscevo la vicenda, sicuramente la mia posizione, quella della Lega, è chiara, non l'abbiamo mai nascosta. Ho capito, ma uno... Come tante sentenze purtroppo hanno dimostrato, le unioni gay erano l'anticamera delle adozioni gay. E mentre secondo me due persone adulte possono fare quello che vogliono, quando di mezzo ma quella è l'adozione, ma col sindaco che facciamo? Il sindaco della Lega ha sposato due omosessuali. Decideranno i trevigiani. Ma tu come Lega che decidi? Il Treviso deciderà la Lega. Ma questa si mette fuori dalla Lega o no automaticamente? Beh, diciamo che tutto il resto del mondo dei sindaci della Lega la pensano in una certa maniera, che sono alcune centinaia, e questo sindaco la pensa in un'altra maniera. E dunque? Dovrebbe lasciare la Lega. Non rappresenta la Lega. Il movimento l'abbiamo sempre detto, le unioni gay saranno l'anticamera delle questa adozioni applica gay, la legge però, però applica la legge questa qua, cioè questa... Ma può anche non essere il sindaco a sposare, può essere un assessore, può essere un consigliere. Cioè tu mi stai dicendo che facendo questa, sì, ho capito, facendo questa cosa qua non rappresenta. Applica la legge, ci sono sindaci della Lega che non sposano, fanno sposare un dunque non rappresenta però... più la Lega. Da questo punto di vista ha fatto l'esatto contrario di quello che gli elettori della Lega le hanno chiesto votandola. Cioè non la riconosce, non può più usare il simbolo, che cos'è? Cioè, ripeto, fuori o no? Con tutto il rispetto del sindaco di Oderzo, io sabato sarò in provincia di Treviso e la girerò in lungo e largo, sarà una scelta locale. Con i problemi che abbiamo a livello nazionale non è esattamente una mia priorità, ripeto. Non rappresenta la Lega. Abbiamo l'emergenza disoccupazione giovanile su cui stiamo lavorando. Aspetta, ferma un attimo. Pronto? È il mattatoio? Ah no, la zanzara. Vabbè, è uguale. La zanzara. Ciao Giuseppe, ieri era il mio 30° compleanno ed io come regalo al mio fidanzato ho chiesto di organizzare una notte d'amore ovviamente con te e ovviamente lui ha consentito a patto che io lo lasci andare a Villach un fine settimana e mi sembra più che giusto questo scambio, quindi assolutamente io non intendo rinunciare al mio regalo, quindi attendo un tuo riscontro. Ciao. Parenzo, che devo fare io? Allora, un momento, vediamo se ho capito bene. Un secondo, scusi Salvini, vediamo un attimo se ho capito alle ore 20. Ho capito che una signorina che ha appena fatto il suo genetliaco, cioè ha compiuto 30 anni, ha espresso il desiderio al suo fidanzato, di fare sostanzialmente un mucchio con Giuseppe Cruciani. No. Allora, vediamo se ho capito bene. No, di andare con me. Non contenta di questo. Di passare una serata con me. Lo ha dichiarato al fidanzato. Ha preso il telefono e ha chiamato in diretta una radio nazionale che appartiene a Confindustria, ma questo è totalmente secondario a questo punto. Sì. Ha telefonato nella ora di massimo ascolto, lasciando il messaggio in segreteria dicendo nome e cognome, la sporcacciona, fammelo in questo caso davvero aggiungere, aggiungere, sì. E ha comunicato a tutto l'universo mondo il desiderio al fidanzato, ma anche ai suoi familiari, a tutti, di avere una tresca consapevole il fidanzato con te. L'altro, per sua risposta, ha detto benissimo, d'accordo. Però... ma voglio andare in questo posto di non so di escort, sì, questo posto bordello, di prostitute, un bordello di puttane e quant'altro. Benissimo. Tutto questo avviene alla luce del sole, alle 20:01 in una radio nazionale e così a buffo, a freddo, diciamo nel mezzo di una situazione complicata, sì, di Confindustria, possiamo anche dire. Ma questo chi se ne frega, così mi interessa niente di questo a me. In tutto questo, le storie, non me ne frega niente. In tutto questo, industriali che stanno molto simpatici a Salvini, ho letto da qualche parte. Ma quello, anche questo, per carità, ma questo io ci sta. Però questo discorso colgo un pochino di invidia e mi immagino la baba alla bocca di Parenzo. No, guardi, caro, non ho ancora sentito un essere umano di sesso femminile chiamando. Caro amico Salvini, benissimo. Comunque a Salvini stanno sui coglioni gli industriali italiani, cioè questa azienda qua che ci ospita. No, coglioni, ho letto da qualche parte che ti stanno sulle balle. Ma figo. I rappresentanti, ho capito, autonominati, sono stati eletti da organi eletti. Presidente di Confindustria, sono stati eletti. No, ma ci non è che deve... Ma no, dice delle cose, ma sono stati eletti, che autonominati di che? Sono stati eletti da organi riconosciuti. C'è roba strampalata. Ma che minoranza di che? Ma quando ma dice delle cose strampalate. Ma non è vero. Confindustria rappresenta se stesso, i suoi parenti non sicuramente. Ma non è vero, Ma posso dare il mio parere. Ma non è vero, è una cosa oggettiva che non è vera. Sindacati rappresentano sempre meno i lavoratori, così come la Coldiretti, Matteo, io non ho difficoltà meno gli agricoltori. Rappresenta gli associati di Confindustria, rappresenta gli associati di Confindustria, i quali hanno letto democraticamente. Vabbè, ma lascia perdere quella roba, è un altro discorso. Diminuiscono di anno in anno, non sono rappresentati. No, scusami, a parte che Confindustria ha sempre fatto politica, primo. Ma non è questione, ha deciso di sostenere il referendum, punto e basta. Cioè, non è che amichetto, non c'è nessun amichetto qua. Ai piccoli medi industriali, lasciamo perdere, dai. Del Trevigiano, di Torino. Vabbè, ma quello è un altro discorso, è punto. è stato eletto e sta, io non so cosa pensa, non è che c'è un referendum o un sondaggio ogni giorno, so semplicemente è stato eletto da una minoranza. Ma che minoranza? È stato eletto secondo gli organi. Ma comunque non mi interessa. Beh, non ti interessa, ti stanno sulle balle. C'è quello che vuole. No, ma è meno male. Fortunatamente non rappresenta la stragrande maggioranza degli imprenditori. Ma quello io non rappresenta quelli che sono. Hanno a che fare con una pressione fiscale, ahimè, da record. Ma quello è un altro discorso, però. Gli a Salvini gli brucia. Che cosa? Gli brucia semplicemente perché gli industriali seri, giustamente, secondo il Confindustria, dicono: ma questo qui ci vuol portare fuori dall'euro. Ma che prospettiva economica è? Ma quello però gli industriali sono persone serie, allora gli dicono: fanno marameo, gli fanno, ma non è che. Che è il Financial Times, che proprio oggi in edicola la copia pubblica un'intervista del signor Salvini, sì, una mia lunga intervista, vabbè, ma anche loro hanno attrazione per quello che ottengono 7 premi Nobel per l'economia, ma infatti in quello io non entro, che potrei anche dare ragione. L'euro è una moneta sbagliata. L'euro, vabbè, è una moneta evidentemente dirlo non mi pare uno scandalo questo Parenzo, adesso oggettivamente questo non è uno scandalo dirlo, ma io lo a spiegare a chi fa impresa nel nostro paese se è uno scandalo o no. Loro producono posti di lavoro, gli imprenditori, e quindi sapranno se è conveniente o no. Ma scusa, chiudono 150 anni e negozi al giorno. Ma questo, che c'entra con l'euro? Questo io sto parlando dell'impresa, delle aziende, quelle che danno posti di lavoro, centinaia di posti di lavoro. Vabbè, adesso, al di là di questo, la battaglia contro l'euro. No, ma ci sarà un motivo. Ma non è che adesso io non lo so, gli industriali cosa pensano di Salvini. Ma non è che, a parte che è anche venuto spesso ai convegni della Confindustria, perché io l'ho visto personalmente, sono stato anche con lui. Ma al di là di questo, che non mi interessa, quello, il punto è: gli industriali sapranno perché gli interessa rimanere nell'euro. Euro. Non perché vabbè, hanno la finanza globale, il gli Bilderberg, hanno perché delocalizzato, producono all'estero, vendono in Italia, devono fare una statua della Madonna all'euro. Gli industriali che hanno resistito in Italia e hanno tantissimi. Una moneta sopravvalutata, vengono da te, Parenzo, ti tira le orecchie. Piccola nota di cronaca, Lombardia e Veneto, che sono le zone più industrializzate d'Italia, hanno due governatori della Lega e li hanno eletti da non molto, quindi che cosa pensano gli imprenditori di Lombardia e Veneto? L'hanno detto, infatti ma non è vero, sono due persone molto serie che infatti parlano molto poco, non parlano per nulla dell'uscita dell'Italia dall'euro. Vabbè, comunque, sia Zaia che Maroni, io voglio fare un'ultima domanda a Salvini, che è questa: ma se tuo figlio, non c'entra niente, però mi è venuto in mente parlando di figli, se tuo figlio, a proposito della vicenda Corona, se tuo figlio dice: papà io voglio fare un selfie col signor Corona, adesso è difficile perché è in galera, però insomma quando uscirà, oppure insomma, se tuo figlio ti facesse una domanda di questo tipo, tu come reagiresti? Se si vuole fare un selfie con Corona, sì, cioè ti dice: papà vorrei fare un selfie, gli spiego chi è quel soggetto, ma ci sono personaggi più pericolosi di Corona in giro, cioè, per l'Italia, cioè secondo te è eccessivo, sarei entusiasta, ma non è eccessivo, è eccessivo tutto, cioè tutte le condanne, no, beh, si è dimostrato assolutamente poco furbo, aveva un'occasione di riabilitarsi e mettere 1,7 milioni che non si capisce da dove arrivano nel controsoffitto, uno ti può perdonare una volta, e la seconda volta ti fai la galera fino all'ultimo. Detto questo, se qualche televisione ci racconti che il pericolo pubblico numero uno in Italia, ma nessuno lo dice, pericolo pubblico, ma nessuno lo dice. Preferirei che mio figlio frequentasse altre persone, però non me ne farei un crucio. Senti, ma se invece tuo figlio ti dice: ti posso suggerire una cosa, lo dico agli ascoltatori a Parenzo, a proposito di business e immigrazione, andate a cercare su internet Trattoria Mercato di Monza. Che succede? Trattoria Mercato di Monza, Trattoria Mercato di Monza. Tu sai chi gestisce 130 presunti profughi nel palazzina di Via Asiago a Monza? Sì, ho letto. La Trattoria Mercato SRL, che è una pizzeria di Monza. Vabbè. Ti rendi conto di come siamo poco seri? C'è una avrà vinto un concorso, vinto, non lo so, avrà fatto un appalto, ha vinto il bando della prefettura. C'è una trattoria, dici? Il Ministero dell'Interno, una trattoria. E vabbè, adesso vedremo. Se avrà la qualifica. Se rispetta gli standard richiesti, hanno fatto bene, anzi andrò a mangiare quella trattoria, io altro che passo da Monza. Se passo da Monza, se dovessi passare mai da Monza nelle prossime settimane, se è solo una trattoria là, mi sembra bizzarra come scusami cosa, no? Se c'è, ci saranno delle regole da rispettare, no? Degli standard, delle cose. È una SRL che ha vinto il bando e gestisce 130 immigrati in una palazzina dove ci sono delle coppie italiane di sfigati che hanno pagato il mutuo per comprare quegli appartamenti e adesso sono circondati. Ma ti pare accoglienza o ti pare business? c'è molto da business. Comunque a me se mia figlia mi dicesse voglio fare la foto con Salvini, direi dove ho sbagliato io. Se vuole fare una foto con Salvini, tua figlia? Se mia figlia mi dicesse voglio fare la foto con Salvini. Sei razzista, no, altro ma dico come con Salvini? Perché sei un razzismo pazzesco. Tanto se vanno avanti le politiche degli amici di Renzi, i nostri figli vanno all'estero per lavorare, perché qua non c'è più spazio. Già ci vanno lo stesso, a prescindere. Allora, se tuo figlio invece ti dice scopri che si è fumato uno spinello, che fai? Mi incazzo, gli spiego che non è una cosa buona e giusta. Ti incazzi, addirittura ti incazzi. Cioè, a 16 anni gli dici... in modo che sia l'ultimo. Beh, no, cosa devo fare? Devo festeggiare. Dico, bella fede, dai. Ma no, ci sono padri insieme che se lo fumano col figlio, lo spinello. Ci sono padri che se lo fumano col figlio. Non penso che mi succederà mai. Ti incazzi, diciamo addirittura che... lo fai smettere. No, gli dico vai avanti. Dai, adesso, come fai a farlo smettere? Scusa, ma non torno alla trasmissione. Sono a favore della legalizzazione della prostituzione, ma non della droga leggera, non della marijuana, non della droga leggera. Sicuramente delle droghe di vario genere. Cioè, le droghe leggere, tuo figlio ti dice papà, mi faccio le canne, cosa che succederà quasi certamente, te lo dico, ti preparo. Cerco di spiegare che non gli fa bene, sicuramente. Non gli fa bene. E poi come fai a impedirgli di fumare la canna? Lo punisci, che fa? Lo metti in castigo, non gli dai i soldi, che fai? Conto sul fatto che sia cresciuto, avendo ormai quasi 14 anni, in maniera tale da fidarsi di chi ha qualche anno più di lui. Magari sbagliare ci sta con gli amici, perseverare. Cioè lo pigli a schiaffi? Gli dai uno schiaffo o no? Ma qualche volta l'ho dato. No, ma lo schiaffo. Papà, fumo gli spinelli, boom, schiaffo. A 14 anni penso che sia finita l'epoca degli schiaffi, anche se non sono uno di quelli che inorridisce, perché qualche sculacciata ci sta. Va a bene. 14 anni penso che glielo spiegherei a parole, senza le mani. Ciao. Cruciani, da Genova ti seguiamo, sei al top. La Zanzara. Certo che Mauro da Mantova è l'ipo intelligente per eccellenza, ma amico mio, ma se tu guardi sotto allo scontrino c'è tanto di esenzione del TUIR a dover fare lo scontrino fiscale, ma non vuol dire che non paghino le tasse, mamma mia, l'ipo intelligenza. E Parenzo gode. Ipo vuol dire sotto in greco. Sì, lo spiegavo per quel somaro di Mauro e altri. Ipo in greco vuol dire sotto. Iper sopra. Ipo è sotto. Quindi lo ha definito giustamente sottointelligente. Allora, c'è un deputato ex 5 Stelle, adesso passato al gruppo non so che cosa. Sì. Sai, alcuni sono sì, passati. Sì, misto, da... che è numerosissimo. Allora... È più numeroso dell'autobus all'ora di punta, il 93. Però tu hai attaccato, adesso faccio prima di farvi sentire questa deputata che si chiama Bencini, sì. Tu hai attaccato quell'ascoltatore in maniera forsennata, caro. Quale Benzo? Dici tu? Quello che raccontava quella storia fantastica, l'ascoltatrice che ha mandato un fantastico messaggio sul fatto che si era messa d'accordo col fidanzato perché lui andasse a Villac, cioè a un bordello a Villac. Ma per dire del degrado ormai, ma non c'è nessun degrado, è la società aperta, come dire, di rendere liquida, la famosa società liquida, ma no, la società sporca, cioè il fatto di rendere sporca. Ma no, poi uno a casa sua può fare quel che vuole, figuriamoci di rendere pubbliche le cose, ma non è una cosa di adesso, è una cosa antica ormai, già sono anni ma che le persone raccontano i cazzi loro, sono anni, una sono coppia anni. Vuole mettersi brutalmente le corna, come dice questa coppia simpatica, ma lo fanno che anche pubblicamente perché c'è un po' di esibizionismo, esiste anche la parola esibizionismo, è quello che a me ormai ti fa schifo l'esibizionismo, non è che mi fa schifo, però dico mamma mia, ma dove siamo arrivati, mia, ma che i genitori di cosa pensano, i genitori che cazzo ne sanno adesso, cioè, pensa sì, te potrebbe... la madre di quella simpatica signorina che compie 30 anni, che aveva appena incartato il regalo per la figlia, dice aspetta che ascolto la radio, come al solito Radio 24 Confindustria, radio molto seria, sentiamo per la prima volta, ascolta, gira, capita lì. Cioè io questa voce la conosco. È mia figlia. Questa che dice che vuole scopare Marco, qualcosa. Marco, il marito in camera che sta guardando la 7, sta guardando il telegiornale che della ne sai? 7. No, magari sono no. Sicuro che è così, sta guardando il telegiornale 3. Della 7. Magari dai 3. No, ma è impossibile. Sta guardando il telegiornale della 7. Allora... Dice Marco, vieni. No, guarda, sto guardando il telegiornale della 7. Ma no, vieni! C'è questa voce, ma chi è? Oh cazzo, ma questa è nostra figlia. Senti che cosa ha detto. Allora provano a rimettere indietro. Adesso lo sentiranno in streaming probabilmente. Ma ti rendi conto di che cosa... Cioè la figlia che vuole scopare col conduttore mentre stringendo un patto col fidanzato, marito, sì, fidanzato, ecco, non lo so. Lì viene il secondo coccolore, dice senti cosa ha detto lui, non mi ricordo neanche come si chiama, che vuole andare a puttane, ma quello vuole andare, cioè che quelli rimangono sulla poltrona così davanti col telecomando che gli cade per terra sul gelato come statue di sale lì così davanti al televisore. Eravamo rimasti alla deputato Bencini. Si parla, incredibile, del contrasto all'obesità al Senato della Repubblica. Ragazzi, Senato della Repubblica. Si parla di contrasto all'obesità. Ora tu dimmi per quale diavolo di motivo al Senato della Repubblica devono parlare di contrasto all'obesità. Se ne parla da Barbara D'Urso di contrasto all'obesità. È il luogo adatto dove parlare di queste cose, col mitologico professor Lemme che affronta le ciccione italiane. Quello è il luogo deputato a parlare di contrasto all'obesità. Non il Senato della Repubblica. A meno che non ci vogliono propinare qualche legge, no? Ci vogliono imporre qualche legge su quale Italia dobbiamo portare. Comunque, in America un po' lo fanno, sì, non ma mi non al Senato, alla Repubblica, cioè alla Camera, se ne parlerà in altre sedi, no? Comunque, questa deputata che si chiama senatrice, che si chiama Bencini, è arrivata a dire alcune cose. Sentiamo. Le famiglie con meno cultura e meno abbienti tendono a mangiare più cibi ricchi di grassi e carboidrati, più facilmente tralasciano la cura del corpo a partire dalla bocca. A causa di cibi con alto contenuto di zuccheri si abbassa il pH della bocca e i denti, se non vengono ben detersi e spazzolati, dopo ogni pasto si cariano. E sempre per mancanza di cultura e soldi la bocca viene trascurata con conseguente perdita di denti, i quali risultano essere utili per sorridere, parlare e per l'appunto per mangiare. No, ma è bella anche il finale. Risultano utili per, capito? Cioè non c'è bisogno che ci spiegava la senatrice, voglio sottolineare senatrice, sì. Bencini, che i denti sono utili per masticare. Va bene? Andiamo avanti. La mancata triturazione del cibo a causa di mancanza di denti fa sì che le persone siano più propense a ingerire cibi più facilmente deglutibili, anche senza doverli masticare, e questi si riducono a categorie di cibi ipercalorici e iperlipidici, quindi dannosi per l'organismo. Combinati con la mancata triturazione, si ha un assorbimento maggiore del cibo a causa di una cattiva e rallentata digestione. Qui è evidente che leggeva qualche cosa, non era farina del suo sacco, comunque leggeva una cosa scritta. Ma la teoria è questa: quelle persone meno abbienti e con meno cultura, cioè quelli più poveri e meno acculturati, in realtà mangiano male. Questa è la sostanza. Secondo voi è vero o no? Beh, questo può essere anche vero. Questo è vero. In America, infatti, è abbastanza consolidata questa cosa, purtroppo. Il traffico è il problema. La Zanzara. Allora ragazzi, ogni tanto Parenzo vado a consultare un sito che si chiama Tutto sul Sesso, così per un tanto per, sì. Secondo me un po' sono cazzate, un po' sono vere, ogni tanto le verifico, ogni tanto le prendo per buone. E senti questa roba qui, alcune sono delle banalità pazzesche, per esempio uno studio ha dimostrato che le donne che bevono 2 bicchieri di vino al giorno hanno una vita sessuale più intensa. Ma cosa cazzo vuol dire? Boh. Cioè se bevi 2 bicchieri di vino al giorno la vita sessuale è più intensa. Un'altra cosa, senti, il 75% delle donne dice di aver fantasticato sessualmente immaginando il proprio uomo con la divisa da pompiere. La divisa da pompiere. Ma perché uno dovrebbe fantasticare un uomo con la divisa da pompiere? Al limite, no, Berlusconi, che cos'è che... Da magistrato che... c'era sì. Una che era vestita da Boccassini. La Polanco da suora, da Boccassini. Ma anche questo è tutto normale ormai, non pare, no? Senti, uno studio ha dimostrato questo. Che chi possiede un iPhone fa più sesso di chi possiede un Android. Secondo me questo qua... Andro Mercurio sarebbe. No, quello Android. Un Andro. È il sistema. Un Andro sarebbe. Ah, il sistema. Pensavo chi possiede un Andro Mercurio. Qua, poverino, lui già... A proposito, caro Parezzo, siamo arrivati a una conclusione, anzi a una domanda a proposito di sesso. La domanda è questa: perché le cinesi? Perché? Io tremo sempre quando sono questi quesiti. No, ma perché le cinesi domande? Non vogliono, non amano il sesso anale? È fondamentale perché l'abbiamo scoperto in questi giorni. Tu non c'eri. Ah, meno male. No, aspetta. E non mi sono perso nulla. No, allora. Ti sei perso una cosa fenomenale. La prima parte però c'eri. Ti ricordi quando chiamò quel tizio Fabrizio da Roma in cui... Penso di averlo dimenticato nel secondo stesso in cui quello ha chiamato. No, ti ricordi quando dissi di essersi innamorato di una cinese? Di una cinese e si può essere di una puttana cinese, di una puttana cinese. Anche quello è successo. Chiamammo si può essere... questa, ci rilasciò, ci diede il telefonino e chiamammo questa puttana cinese. Un'esclusiva incredibile, ci ha regalato proprio uno scoop presunta puttana da cinese. Fare invidia agli amici che fecero. Senti. Watergate. Time for love. Liu, questa si presentava come Liu, in realtà poi non era Liu, non era Liu, non era Liu. La chiamammo, il risultato fu questo. Pronto? Sì, ciao, ciao. Ciao. Senti, posso chiederti quando posso venire? Ok, va bene. Ma quando? 50. Ma anche adesso posso venire? Sì. Mi ricordi un attimo l'interno, scusa, che non mi ricordo esattamente. Io non capito. Dove devo suonare? Via Ostiense, numero 104. Ostiense 104, Sì, sì. Ah, non mi ricordo. E dov'è che devo suonare? 50. 50 che? Sì. No, dove? 50 euro? Sì, sì. E 50 euro che si fa con 50 euro? 50 euro massaggio tutto, completo. Completo massaggio, ma dopo il massaggio come funziona? Sì, sì. No, ho capito, ma dopo il massaggio cosa c'è? Il massaggio tutto, solo culo, niente, capito? Sì, questo l'ho capito. C'è tutto, anche rapporto, tutto. Sì, culo, niente. Sì, ma questo l'ho capito, culo, niente, questo ho capito. Ma sì. Sei sicura? Sei sicura, culo, niente? Sì, sì. Niente, se no nemmeno 100 euro? Niente, niente. Niente. Va bene, senti, posso venire anche subito? Sì. Posso venire anche subito, ma c'è Liu? Non c'è Liu. Non c'è Liu, ah, ci sei solo tu, Liu non c'è. Tu vieni là e vedere, va bene, non va bene, va bene, non va bene, via, ok? Ah, cioè vengo e guardo, se mi va bene, ma quante siete là dentro? Sì. Quante siete? Sì. Tutti due. Due siete? Sì. Due ragazze siete? Sì. Tu non sei italiano? Io sono italiano, certo che sono italiano. Come ah, no? Ok, scusa amore, io poco italiano, tu no. Vieni e parliamo, ok? Ok, ok, ok tesoro, ma tu allora sicuro, l'altra ragazza stesse tariffe fa, ma insieme? Sì, sì. Ma pure insieme fate, tutte e due insieme 100 euro? Sì. Ma voi fate insieme? Sì, sì. Anche insieme, cioè in tre? Sì, tu e noi parliamo, ok? Ok, vi Ostiense, vi Ostiense. Sì, sì. Ciao tesoro, ciao amore. Ok, ciao ciao. Ciao tesoro. Lì, qui tu c'eri perché mi hai detto perché parli in questo modo, no? Allora, qui la cosa più rilevante mi pare che la signora cinese abbia messo in discussione la tua italianità, perché si vede che parli male l'italiano. Ma no. E quindi giustamente la migrante cinese dice: ma scusami, tu sei italiano, questa è la cosa più clamorosa che noto. Poi noto la tua insistenza nel chiedere alla lavoratrice se è atta a usare anche e questa giustamente ha ripetuto più di una volta no. Alla quarta che tu insistevi, ma scusa, tu capisci italiano o no? Perché insistevi e sembrava non avessi capito. Ma non è quindi finita lì, perché il vero mistero, no, in realtà, a parte l'indirizzo via Ostiense 104, io invito i nostri ascoltatori a questo punto ad andare a frotte, sì, in questa ti arrestano anche per sfruttamento della prostituzione, magari venissero i poliziotti qui, no, perché per dirmi, stai facendo, sto propaganda, facendo propaganda, no, ma l'hanno detto loro, abbiamo chiamato noi, che se uno dice via Ostiense 104 non è che posso dire che non c'è via Ostiense 104. Via Ostiense 104 evidentemente c'è delle signore cinesi che gestiscono una specie di semi così. Ma ragazzi, ma diciamo la verità, ma quanti ce ne sono in tutta Italia? Poi un poveraccio. Poi hai detto ciao amore, quella giustamente ha chiuso il telefono perché ci avevamo perso tempo con no, sto ma qua. Senti, c'è stato ciao, un seguito, quindi c'è stato un seguito. Ha chiamato seguito il signor Andro Mercù. Ieri. Pensa a te, signor... un altro buono quello. Senti, senti, senti. Se non risponde. Pronto? Ciao. Ciao. Senti, posso venire da te? Ok, va bene. Senti, quanto chiedi? 50. Quanto? 50. 50. Io ho una particolarità, vorrei il culo. Culo niente. Come niente culo? Niente, niente culo, non piace, niente culo. Ma sì, okay. dai. Niente, pago, niente, capito, non piace. 10 euro in più, 60 no, euro no, niente, il culo. Niente, 70 no, euro niente. Il culo. Dai, niente. Dai. Oh, capisci che c'è un problema qui da no, capire. Il problema è vostro che la chiamate, sì, primo. Secondo, il problema è di Mercù. Il problema è che l'ottimo e buon Mercù, anche lui si era fissato con questa cosa. E la signora, e ha, la tenuto signora il punto, ha tenuto il punto. Ha tenuto il punto nonostante cioè, quello non si lascia comprare. Mercanteggiasse si... soldi non so. A parte che Mercù ce n'ha manco i soldi per pagare la pizza, che una volta siamo usciti e mi ha detto hai 5 euro in più. Quindi non stia lì a mercanteggiare con le signorine cinesi che già l'hanno capito dalla voce che non c'è una dire, che c'ha manco i soldi per piangere quello lì. Quindi voglio dire, con tutto l'amore, l'affetto e il rispetto, beh, oddio, che non ho sei per, gentile, per Android, per Android, allora... e quindi la cinese ha annusato che l'uomo era un nulla tenente praticamente, e quindi ha detto: guarda, stai a casa tua, fatti una bella doccia gelata, arrivederci, grazie. Dopodiché non so cosa ci sia da ridere di una signora che giustamente non vuole, ha messo via i suoi limiti rispetto al lavoro, i suoi paletti ha messo, no, normale. Va bene, ragazzi, comunque resta un mistero. Le cinesi evidentemente sono abili in tutte le cose, tranne che, cioè, non vogliono mollare quella roba lì, c'è poco da fare. Adriana Torino, dai, Adriana. Ciao. Dimmi, Adriana, dimmi. Io dovrei chiederti tante cose, però te ne dico solo una. Dimmi, cara, sono dimmi. Innamorata di te. Parenzo, aiutami tu, che devo fare? Ma sai, il mondo, la gente ha il gusto dell'orrido, come dimostra questa trasmissione, quindi voglio dire, non... Sì, perché no, ma il gusto dell'orrido è una cosa... Ma no, adesso non esagero. Ci sono anche quelli che amano i cadaveri, Cioè, ragazzi, vabbè, il mondo... che sei, vabbè. No, Parenzo, voglio dire, ci sono... farmi parlare, Parenzo. Sì, prego, quanti signora, anni hai? Adriana, quanti anni hai? No, non te lo dico, perché me l'ha chiesto già la centralinista, che ero contrariata. Non ho capito, ma come si è messa a gridare? Non ho capito. Io posso dire tutto quello che voglio quando mi chiedono al telefono, praticamente poi risulta tutto il contrario di quello che dico. Scusa, sì, ma non ho capito una cosa. Non ho capito. Dimmi. Quanti anni hai? Te lo ripeto, quanti anni hai? Gliel'ho detto alla centralinista, io non te lo dico in privato. Ma in privato, a parte che qui non siamo in privato, sarebbe... Sì, sarebbe... appunto, no, volevo dire... Over 40? Over 40? Sì, over 40? Bene. Over 50 o over 40? Giù di lì. No, che vuol dire giù? 50 anni, c'hai 50 anni, ma perché me lo devi spaparanzare? Parenzo, che devo fare con questa signorina? Scusa, che devo fare con questa signora? David, dimmi. Non lo so, che cosa vuoi fare? No. Che... Ascolta, dimmi, Adriana, dimmi. Ti dicono tante cose, ti buttano in faccia tanto di, di quelle parole. Io te ne dico una che nessuno ha sentito che ti ha detto. Sono innamorata di te, mi piace come parli, mi piace come ti poni. Mi piace tutto di te, mi piace anche come sei, ti ho visto in televisione. Capito, Parenzo. E un taglio a quei capelli darei una gestatina a quei capelli tutti arruffati. Ferma lì un attimo, Adriana, ferma lì un secondo. Allora, il signor Gasparri ha appena twittato questo, il mondo di Niki Vendola e Monica Scirinna. E poi insieme una notizia della DN Kronos, neonata in vendita sul web a 5.000 euro. Cioè, secondo Gasparri, il mondo di Vendola e della Cirinà è quella di chi mette, sai che c'è stata questa storia del bambino messo in vendita a 5.000 euro sul web. Certo. Cioè, ragazzi, però fare un bambino in provetta, bambino in provetta o fare un bambino in quel modo, nel modo in cui ha fatto Vendola, non è che significa comprare un bambino messo in vendita su internet. Non è la stessa cosa, ragazzi, non diciamo cazzate, dai. Ma un referendum per cacciare Parenzo, no, eh? Un bel Parexit. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Bisogna fare dei rituali per far sì che non ti cacciano, bisogna fare dei lavori particolari. Io vedo molto negativo. Allora, caro Parenzo, eravamo con la signora Adriana da Torino, la quale ha chiamato questa prestigiosa realtà radiofonica italiana, direi anche europea, forse anche mondiale, per dire in maniera molto semplice che è innamorata del sottoscritto, cioè del conduttore di questa trasmissione. Certo, è la verità. È la verità. Ma allora, beh, ma questo, questo è normale, dici? No, almeno questo è normale. Non è normale, perché non ho sentito mai nessuno che ti abbia detto una cosa simile. Ma, infatti, perché nessuno aveva mai toccato una bassezza simile. Ma voglio ma dire, perché non bassezza? È... Non ho capito, bassezza di che perché cosa? Perché dai. Allora, scusa, hai delle fantasie sessuali su di me, Adriana? Ecco, entriamo nel merito, giustamente. No, me ne guarderei bene, no, da arrivare proprio oltre, no, assolutamente. C'ho molta simpatia per te. Vabbè, ma allora che ci facciamo? Ma lei ha avuto un'infanzia felice, signora? Di un insieme di cose. Ma no, ho capito, ma nessuna fantasia sessuale, mai? Ma perché la devo avere? Beh, ma una è normale che ce l'abbia, questo sì, Parenzo, questo lo puoi ammettere. No, nessuna fantasia sessuale. No, non mi piace, uscirei dai soliti schemi, no. Che tu hai, sono l'antica. Ti piacerebbe, ti piacerebbe un rapporto intellettuale, diciamo, no? O no? Beh, no, adesso la parola intellettuale. Giustamente si offende, è altro. È quello che ti ho detto, mi piace come ti poni, anche quando dici le parolacce, mi sta bene. Delle volte mi fai ridere. Ti arrabbi? Ti ascoltavo di notte, poi ho scoperto che invece era una registrazione. Ma no. E allora sono andata alla ricerca sul web, so che vai in onda al pomeriggio dalle 6 alle 9. Dalle 18:30 alle 21, sì. Giacomo da Milano, ciao Adriana, ciao. Giacomo, Milano, vai. Giacomo. Pronto, dimmi, buonasera. Dimmi. Mai mi sarei visto chiamare questa trasmissione, ma devo pagare una scommessa, purtroppo. Cioè, qual è la scommessa? Mi dovrò accodare, devo denunciarmi, denunciare anche la mia ragazza, dice che Cruciani è un figo e che vorrebbe andare adesso con lui. Però io di contro non chiedo di andare a un bordello a Praga. Vabbè, allora perlomeno niente, solo questo dovevo denunciare. Cioè, solo questo, devi denunciare che anche la tua ragazza è una cotta per me. Sì, poi siccome. Vabbè, ma una roba così vaga, una roba vaga. Ma no, dice che sei un gran figo che vorrebbe. Ma quello che c'è. Letto, ma che portarmi. Tu non sei geloso, spero. Ma no, in realtà un po', perché abitiamo vicino, per cui già. È già più facile. Cioè, sei in pericolo, dici? Sei in pericolo. Sì, sono in pericolo. Ti ho incontrato anche sabato sera. Quindi. Cioè, è in pericolo, capito? Si sente un po' in pericolo. Sì, io chiederei l'intervento di un buon medico, di un buon neurologo, di qualcuno che è specializzato. Ma so, perché? Ce ne sono tanti. Scusa, ci sono delle eccellenze in questo paese che si occupano proprio di neuroni, quindi. Ma perché non ho capito, questo signore è un po' preoccupato perché avendomi incontrato a Milano, evidentemente la sua ragazza gli ha confessato di avere un po' che passerebbe qualche ora, no? Con ragazzi miei, che vi devo dire, che bello questo mondo vario, così con questo gusto. Giacomo, ripeto, non ho capito, ma ci sono persone che la notte vanno a frugare nei cimiteri. C'è gente che ha rapporti con dei cadaveri. Ci sono non è la stessa cosa, sì, adesso, Ma insomma adesso non è proprio la stessa, magari appunto nella scala dei valori forse chi ha rapporti con i cadaveri è financo migliore, ma voglio dire, però non è che mi stupisce tutta sta roba, questo chiama la fidanzata, ti rendi conto che è una porcheria? Cioè, no, almeno no, rendersi conto no. Che ci sono in giro, fate ste porcherie, ma fatele a capo, perché dovete dirlo, fatelo, io non è che mi scandalizzo. Ditelo pure. Allora, io farei, quasi in conclusione della serata, abbiamo ancora diversi minuti, però, una telefonatina in un piccolo paese, in provincia di Padova, dove c'è una coppia che ho visto l'altro giorno in televisione con un forcone in mano, la signora, la vecchina, sono sempre le vecchine le più arzille, le più forti, no, di testa, che inveiva contro Renzi, qui mi hanno rapinato dentro casa, mi hanno rapinato, e allora non possiamo dare i soldi agli immigrati, diamoli alla polizia! Sono due cose diverse, però la signora dice è stata picchiata dentro casa, eccetera, non sopporta gli immigrati in giro, nulla facenti, e non sopporta che gli si diano anche dei quattrini, la signora. Parenzo, facciamo una telefonatina alla signorina? Se proprio è necessario. All'anziana signora, ultra ottantenne. Pronto? Rosina? Sì. Chiamo dalla radio, sono Giuseppe, ciao. Ah, buonasera. Senti, ma perché ce l'hai con Renzi? Che è successo con Renzi? È perché dai i 35 euro a quei disgraziati che mi hanno bastonata, picchiata e derubata di soldi e di oro. Invece di dare ai carabinieri, che sono loro qua la notte, quando abbaia il mio cane, corro alla finestra e vado a vedere, e vedo loro che vanno contro il ponte di ferro, piano piano, e poi tornano indietro. Sono qua le 2, le 3, le 4 di notte quella gente. Ma chi è sotto casa tua? Che fanno sotto casa tua? No, sotto casa mia, sulla strada, fanno un giro per vedere. E io ti ho detto, sono i ladri che attendono a voi, non voi tendete i ladri. E hai preso in mano il forcone? Sì, per infilarli quando vengono dentro. Ma tu non ho capito, tu la prima volta t'hanno picchiato, giusto? Sì, tutta rossa. Tutta rossa, cioè. E quanto t'hanno rubato? 1300, erano 1200 per pagare il pellet, no? E qualcuno dice che la delinquenza è diminuita, che i delinquenti sono... non è vero! Ascolti, vero, adesso. Dalla signora Marisa di Merlara, sono andati da lei il 22 gennaio. E chi è? Tutti e tre quelli lì. Ma chi è sta signora? Scusi, io non capisco. Signora di Merlara. E chi è la signora di Merlara? Si chiama Marisa, non lo so il cognome, aspetti. Ho capito, ma non rientra nelle statistiche. Le statistiche dicono che sono diminuiti i furti. Poi, per carità, mi dispiace. Dice, Librandi. Anche Parenzo lo dice. Ma anche sì, Parenzo. Anch'io, certamente, ma non posso diminuire. Conosce Parenzo di Padova, signor Parenzo? No, no. No, meno male. Bene, dice meglio. Che sono diminuiti, secondo le statistiche, sono diminuiti i furti. Ma sicuro? No? Prendiamo bene un forcone pure per Parenzo, oltre che per Renzi, anche per Librandi, o no? Ah sì, te l'ho detto che ho detto, l'ho invitato a venire a vedere cosa hanno fatto. E lui viene, no? Vengo a prendere un caffè. Sì, tre, ho detto io. Mi telefona la sorella di mio marito da Brescia. Potevi dire che ci mette il veleno dentro, mi ha detto. Addirittura. Mamma mia, ma tu che pensi, Rosy, degli stranieri, gli extracomunitari che vengono in Italia? Come li consideri? Se me li potessi sparare, li sparerei. Ah, spareresti pure? Io ho fatto 30 anni di Svizzera, mio marito 50, ma non ci siamo comportati così. Cioè, se tu potessi, spareresti a questi immigrati? Sì, spariamo, Parenzo, spariamo. Ho detto una volgarità. Vabbè, anziana, i carabinieri sono qua, venite, li voglio qua, portatemi qua, che so io cosa fare. Cosa fai? Li cacciano come quando mi cacciano i caponi, ho detto. Ma che fai davanti a un immigrato? Che fai, Rosy? Quello è scappato da una guerra. Quale guerra? Questi non sono... Mamma, mi fa urlare. Questi non sono scappati dalla guerra, questi 12 anni che abitano qui a Castelbaldo e Merlara e non cercano lavoro, fanno ferie e vacanze con i miei soldi e oro e roba che rubano a tutti questi. Anch'io, anche i nostri italiani non andrebbero a lavorare per 35 euro al giorno. Beh. Sarebbero una vita bella, ma contate voi in fine dell'anno, del mese, 35 giorni quanti sono. Ma che ce l'hai? Che c'hai? Solo il forcone a casa? Non c'ho altro, avevo... Mi arrivo da una pistola, mio marito l'ha data anche a me perché avevo paura. Ma non puoi mica difenderti. Beh, insomma, sì, qualcuno spara in Italia, eh? C'è gente che spara. Preso per la spalla, puttana dove i soldi, puttana dove l'oro e botte con un nervo di bue. Ma chi ce l'ha sta pistola adesso? Il figlio del mio marito, era una pistola vecchia di guerra, non so. Però senti, ma allora, facciamo una cosa, di una cosa a Renzi, di una cosa a Renzi poi in faccia, se ce l'avessi di fronte a Renzi, cosa diresti, signor Renzi? Sì, urlerei in faccia, non è giusto quello che fa, non è giusto. E stesso cos'è a Librandi, come si chiama? Signor Librandi, sì. Ma Librandi, signore in croce. Che è successo? Che dice che sono loro che ci pagano la pensione col suo lavoro. Ma quale pensione mi pagano, ma che non lavorano neanche? Beh, e molti lavorano. Sempre dall'Italia. Da 700 euro all'anno. Mamma mia, Rosina, ma sei, tu lotti come una leonessa. Quanti e anni... io ho soltanto 155 euro al mese. Ma quanti anni hai tu oltre a 155 euro al mese? Che è una 86 anni. 86? Sì. 86 anni, ma tu capisci? Perché ho fatto 30 anni di Svizzera, che ho 500, quasi 600 euro dalla Svizzera. Ah, dalla Svizzera, beh, certo. Ma dall'Italia, ma lui dice che noi la pensione sono quelli che ce la pagano. A me non mi paga un Cristo, me la sono guadagnata lavorando all'estero come una sema. Grazie. Ciao. Arrivederci, buonasera. Mamma mia, come lotta questa! Come lotta, ragazzi. Dai, Andrea Como, vai, Andrea. Chiudi la baracca, vai. Aspetta, che chiudo, Andrea Como. Cosa succede adesso? Chiudi no, la baracca. No, meglio deve ancora arrivare. Andrea, dai. Aiuto. No, guarda, mi senti? Mi sì, sentite? Ti sento, dimmi. Ah, ok, perfetto. Allora, vabbè. Ciao Giuseppe, ciao. Dai, veloce, Andrea, forza. Vabbè. Comunque, ti ho telefonato per questo. Hai fatto una domanda. Perché alle cinesi non piace il sesso anale? Sì. È solo un fatto culturale. La maggior parte di queste ragazze arriva dalle campagne. Non considerano neanche... è arrivato il sociologo. Il canale posteriore. Evidentemente lo come... sa, che sociologo? È arrivato lo saprà, il sociologo. No. Sigmund Bauman è arrivato lì. Ma lo saprà, Andrea? No, come Parenzo, fai a guarda, saperlo? Scusa. Stai dicendo una sciocchezza. Mi piaci... Ma stai dicendo una sciocchezza in questo momento. Il me professore l'ha spiegato una mia amica cinese. Una mia amica cinese, il professore emerito è arrivato. Il professore emerito. Scusa, di Andrea, di... ci sta dicendo una cosa interessante. Usi costumi dei cinesi. Le cinesi, sei un pirla. Le cinesi momento, non amano. Sei intelligente, in altri momenti sei un po' un pirla. Allora, le cinesi non amano il sesso anale. Ma ci spiega che cosa ce ne frega. No, a me me ne frega. A me frega. A me frega. Quelle che vanno. Questa minchiata. Che arrivano in Italia a prostituirsi oppure vanno nei centri benessere. Sono ragazze che vengono portate dalle campagne e culturalmente non considerano neanche lontanamente il sesso anale come una pratica sessuale. Questo è il motivo. Cioè, il motivo è che proprio non sanno nemmeno che esista, però sanno culo. Non è di fuori del loro orizzonte culturale, punto. Non vanno. Quello è l'unico motivo. Spiegazione ottima. Marco da Parma, vai Marco. Oh, Marco. Marco. Pronto? Dimmi Marco, dimmi. Eccolo. Dimmi. Ti riguardo ieri sera nei parcheggi, ti ricordi la telefonata di ieri sera? Beh, i parcheggi, camionisti gay, sì, dimmi. Esatto, io sono il camionista di Parma, Marco, ci siamo già sentiti. Non è vero che arrivano i tipi che vogliono i soldi, solitamente li offrono i soldi. Vabbè, qui si apre un mondo. Marco da Parma, camionista omosessuale, mi sembra, o no? Assolutamente sì. Assolutamente sì, vabbè, non è scontato. Camionista omosessuale, vabbè, direi, Parenzo, che ci possiamo sentire domani col camionista omosessuale, tu che dici? Direi anche no. No, perché il camionista gay, il camionista gay, carità, va tutto benissimo, ma... che ci vuole aggiornare su quello che avviene nelle piazzole italiane, figurati, dove la zanzara si sente molto bene, devi sapere. Non vedo l'ora. Ora che sia ottimo, domani. Ottimo, vedo, ecco. Ti sento caldissimo non su questo argomento. Non vedo l'ora proprio, lo guarda. So che non vedi l'ora. Non dormirò la notte a pensare a questo bravo, nuovo, bravo. Questa nuova maschera. Assolutamente, Marco da Parma, camionista gay, a domani. Sai che vi dico, caro Parenza, caro Cruciani? Andate a fare in culo tutte e due, va. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Ragione, lo dica, casa, lo, dica, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Siamo ad alti livelli qua, eh? Radio 24. La passione si sente.